Allora, nel chiarire tutte le cose che riguardano il Chametz, iniziamo da, prima di tutto, quali sono i precetti nella Torah? Quali sono i precetti nella Torah che riguardano Pesach e il Chametz? Allora, in generale, per ciò che riguarda Pesach, sono otto precetti nella Torah, otto mitzvot, di cui tre di questi otto sono mitzvot a sé, mitzvot positive. E 5 delle 8 mitzvot sono mitzvot negative, mitzvot lo tase. Il primo di questi 8 precetti, 8 mitzvot, non trovi la pagina? Su Mishnah, non so, Lacha. Forse manca. Comunque non stiamo vedendo al momento. Al momento non stiamo vedendo il testo. Pagina avevamo aggiunto. Allora forse manca. Gira quella. Gira. Allora, può darsi che manca. Può darsi che manca. Forse l'hai aggiunta prima. Ce l'hai sulla prima. Eccola lì. Questa quasi. Ok, tutto a posto. Allora, il primo dei divieti, il primo delle mitzvot, delle otto mitzvot, è quello che è il divieto di mangiare chametz dal chatzot, dal mezzogiorno, del 14, cioè della vigilia, 14 di Nisan, la vigilia di Pesach. Che c'è scritto Ach Bayom Harishon, il primo giorno. Il primo giorno si intende in questo caso il giorno prima dell'inizio. Lì già c'è un divieto di mangiare chametz, già dal chatzot, già dal mezzogiorno della vigilia. Il secondo precetto è il precetto positivo di distruggere, di eliminare qualsiasi chametz. Già anche questo dal 14 di Nisan, ok? E di nuovo dal mezzogiorno della vigilia di Pesach abbiamo il Mangiarlo. obbligo di. Mangiarlo, Aspetta, no? Non è così. abbiamo l'obbligo di eliminare o di distruggere. Adesso vediamo bruciare, siamo arrivati dopo. Questo stiamo partendo dai precetti della Torah. Il terzo precetto è quel divieto di mangiare chametz nei 7 giorni di Pesach, che è un precetto diverso da quello che di non mangiare chametz la vigilia di Pesach dal mezzogiorno. Il quarto precetto è che non solamente è vietato mangiare chametz puro, cioè per esempio il pane lievitato, ma anche un miscuglio in cui si trova, cioè altri cibi in cui si trova cibo chametz, diventa a sua volta anche vietato. Questo è il quarto. Il quinto divieto è che il Chametz non sia visto in nostro possesso per i 7 giorni di Pesach. Approfondiremo tra un attimo. Insieme al sesto divieto è quello che il Chametz non si trovi in nostro possesso, non sia in nostro possesso per i 7 giorni di Pesach. E gli ultimi due precetti sono quelli legati al Seder, cioè le due mitzvot positive, uno di mangiare la matzah e uno di raccontare la storia dell'uscita dall'Egitto durante questa sera del Seder. Questi sono gli 8 precetti. Ora, torniamo a ciò che riguarda il Chametz e il precetto di dover distruggere, eliminare il Chametz. Ok? I maestri hanno spiegato nella Gemara che, come ho detto prima, questo già vige dalla vigilia di Pesach, perché riguardo il sacrificio, il Korban Pesach, è scritto lo tishchat al chametz dam zivchi, ossia non fare la shechitah, la preparazione del sacrificio, quando ancora il chametz è presente. E il Korban lo si fa non durante Pesach, ma la vigilia di Pesach. Quindi, dal momento che si fa il Korban, già il Chametz doveva già essere eliminato prima. In altre parole, la Torah ci chiarisce che il Chametz deve essere eliminato durante la vigilia di Pesach, non da quando entra Pesach la sera, ma già da prima. E questa mitzvah vige per tutti ugualmente, nella stessa maniera, uomini e donne. E dal momento che non abbiamo eliminato dal nostro possesso il chametz dal chazot, dal mezzogiorno per la Torah, in poi, allora ogni momento stiamo andando contro questo comando della Torah. Se è una trasgressione, considerata in ogni momento che non ancora non si è eliminato il chametz. Allora, la prima di queste mitzvot appunto è questa, quella di distruggere ed eliminare il chametz. Noi sappiamo che a livello spirituale il concetto del chametz è paragonato al concetto del yetzer hara o dell'ego in generale. Quello di, diciamo, per poter entrare nella Kedushah di Pesach, del Korban Pesach e del Seder e di tutto ciò che Pesach rappresenta, la libertà, dobbiamo eliminare quella parte negativa che si rappresenta fisicamente nel chametz a Pesach. Allora, il divieto di chametz a Pesach è molto particolare, perché non solamente non si può mangiare, come può essere per altri divieti legati al cibo, come nella kasherut, ma anche è vietato che sia presso di noi, perché abbiamo detto, ci sono due precetti, non sia visto e non si trovi il chametz presso di te. Però i chachamim hanno spiegato che la Torah si è espressa in una determinata maniera, perché ci potrebbero essere dei casi in cui il chametz può rimanere dentro casa tua e tu non fai nessuna trasgressione. Perché? Perché la Torah dice velo yera'e lecha, velo yimatze e lo ira lecha chametz, velo yera'e lecha seor. Questa parola lecha, per te o tuo, a te, va ad indicare che il divieto che il chametz sia presso di te e se il chametz appartiene a te. Ah, ok. Solo lì vige il divieto. Ma se il chametz appartiene, per esempio, a un non ebreo, o appartiene a nessuno, che tu l'hai reso hefker, hefker vuol dire non ha nessuna proprietà, non ha nessun padrone, allora il chametz potrebbe essere nella tua proprietà, che non appartiene a te. Lecha. Solo se non appartiene a te. Questo vuol dire che se, per esempio, dentro casa tua o dentro una casa che appartiene a te hai affittato o anche senza affittare abita un non ebreo e lui ha del chametz, allora cosa succede? Tu non devi distruggere il chametz che appartiene al non ebreo. Il tuo chametz devi distruggere, ma non il chametz suo. Cioè, se uno entra in casa tua con un panino, è suo. Esatto. Ok. Cioè, al limite che potrebbe andare bene così. Non... Attenzione. Attenzione. Allora, qui non stiamo studiando sul Shulchan Aruch. Non sto dando adesso indicazioni cosa dovete fare a Pesach. Stiamo cercando di capire le fonti come funzionano. Okay. Arriveremo man mano a come è il comportamento finale. Partiamo dalla base. Non può essere visto e non si allora può trovare presso di te chametz. Aspetta, per capire, per fare una domanda sul visto. Sì, sì, sì, aspetta. Okay. No, si può vedere chametz che non è tuo. Ecco, non c'è nessun problema. Okay, questo... Sì. Se tu vai per strada e vedi una panetteria... Se non è tuo. Vero? Se non è tuo, non c'è problema della vista. No, ma lo puoi vedere pure a casa di altri? Cioè, certo. Eh no, che ne so, apposta lo chiedo. Sì, a casa di altri non c'è proprio nessun... Vai nello studio di qualcun altro, ti offrono cose, stai... Basta che non la mangi. Non lo sapevo, certo, poi sì? Chiesto. Sì? A chiudere gli occhi. Non c'è... Allora, per questo stiamo sottolineando, i Chachamim spiegano, questa presenza del chametz è se il chametz appartiene a te, oppure se tu sei responsabile per quel chametz. Vuol dire se ti viene dato un pegno, per esempio, in chametz, o ti viene chiesto di salvaguardare, o di... abbiamo studiato un po' di questo nella Mishnah, allora lì in quel caso è come se fosse tuo per ciò che riguarda il divieto del chametz, lo devi distruggere, lo devi ridare prima di Pesach, quello che sia. Lì si rientra nel divieto, se è tuo o se tu sei responsabile per quel chametz. Sì? Forse faccio una domanda stupida. Non ci sono domande stupide. Ma tante persone mettono il chametz fuori del balcone, il terrazzo... Ok, adesso spiego, un attimo solo. Allora, di nuovo, se il chametz non appartiene a te e tu non sei responsabile di quel chametz, allora non sei passibile non rientri nel divieto del non avere chametz o non vedere chametz. Però, bisogna... Se questo chametz è presente nella mia casa, cioè per esempio il chametz che appartiene a qualcuno non ebreo che lavora dentro casa mia, si trova dentro casa mia, Io dico che non è mio e io non tolgo tutta la responsabilità e allora non c'è divieto, è vero, però ci sono comunque degli accorgimenti da fare, cioè tu devi creare una mechitza, cioè una distinzione, che si capisca che questo è chametz, che sia chiuso in un armadio o in qualche altra maniera, come diceva Piero, appunto, e questo è il punto, o che sia chiuso a chiave, o che sia chiuso in maniera chiara, che sia scritto questo è chametz, perché la persona si possa ricordare che quello è chametz, per non arrivare a mangiarlo, perché se lo mangia comunque rientra nel divieto. Non rientra nel divieto del possesso perché non è suo, ma rientrerebbe nel divieto di mangiare. Il divieto di mangiare riguarda anche un chametz che non è tuo, certo. No? Qui stiamo parlando solo del divieto di possesso. Ecco perché si mette nel balcone, si chiude, qualcosa si fa per chiudere che sia chiaro che sia chametz. Ok? E quindi, se, come dicevi tu, non ebreo entra dentro casa tua a fare dei lavori e viene col suo panino di pane che è chametz, è permesso, non lo devo cacciare via. Però è vietato che lui si metta a tavola con me. Ah, certo. Perché lì potrebbero confondersi le mie idee, dimenticarmi che è Pesach, eccetera, eccetera. Però in teoria non c'è nessun problema. Ma non c'è nessun problema. In pratica forse uno lo vorrà evitare per evitare, no, non so. Sì, però tecnicamente non c'è problema. Anche se ti risporca a casa. Lo pulisci. Ah, ok. Lo ripulisci, lo togli e butti. E beh, non è tuo. Il problema della presenza del chametz è quando appartiene a te. Ok? Posso capire chi non lo vorrà fare per molte questioni, però stiamo parlando di nuovo della tecnica. La tecnica dice non lo richiede. Ok? Ora abbiamo visto che il divieto di non vedere o che si trovi chametz presso di sé a Pesach riguarda solo il chametz proprio, vero? Ok. È quello sul quale c'è appunto la responsabilità, anche se non è proprio. Va bene? Yes. Ok. Allora la domanda è, cosa succede, per esempio, in un caso in cui si acquistano delle azioni di un'azienda che ha chametz? Queste le azioni in azienda Peroni Birra, per dire, no? Che è tutto chametz. E tu sei, acquistando le azioni, forse sei considerato un proprietario. Vero? Allora, la halakha dice, ci sono molti approfondimenti su questo nella halakhot e nelle responsa, soprattutto degli ultimi anni più recenti. La halakha di base è che dipende che tipo di azionista sei. Se, no, perché se la Peroni prende in considerazione la tua opinione su loro decisioni commerciali, allora dovresti vendere quelle azioni prima di Pesach. Perché allora sei considerato un vero proprietario. Ma se sei un azionista come un milione di altri azionisti, che semplicemente se il mercato funziona in una determinata maniera tu potresti guadagnare qualcosa, potresti perdere qualcosa, ma loro non ti conoscono e non prendono in considerazione quali sono le tue opinioni riguardo il loro comportamento commerciale, allora non sei considerato proprietario e non devi vendere quelle azioni, puoi tenerle anche a Pesach. Perché non è considerato il tuo possesso quella birra o quel chametz. Socio di minoranza, socio, non hai nessuna potere. Un'altra domanda cattiva. Sì. Invece nei farmaci il chametz funziona. Allora, arriveremo anche ai farmaci. Una cosa alla volta. E non mi hai risposto. Una cosa alla volta. Ma è logico. Torniamo alla base. Abbiamo detto che entro il Chatzot, come base per la Torah, del giorno 14 di Nissan, prima di Pesach, bisogna distruggere il chametz. Come si distrugge il chametz? In realtà è una guerra che funziona su due fronti. La guerra contro il chametz ha due fronti. Sud e nord. Machiavelli. Una fronte è teorica nel pensiero e un'altra fronte è nel pratico, nell'azione. Un modo spirituale e un modo materiale per combattere il chametz. Ok? La prima cosa, quella spirituale, quella teorica del pensiero, è un sentimento, quello di nella propria mente, bitul, quello che abbiamo detto annullamento, è un annullamento, una cosa che avviene nella persona, non è un atto fisico, materiale. È un porsi nel pensiero in una determinata maniera, considerare come se qualsiasi chametz che ci fosse nel mio possesso, io lo considero polvere della terra, non gli do importanza. Due elementi ci sono. Uno, il non dargli importanza, cioè lo considero come se fosse polvere della terra, nella mia mente. E la seconda, renderlo hefker, quello che dicevamo prima, è fuori possesso, non è mio possesso e non lo do a qualcun altro quel possesso, quella proprietà. Quindi non è proprietà di nessuno, non appartiene a nessuno e lo considero come se fosse nulla. Ma questa è una cosa che dico a me stesso? Aspetta. Questo avviene nel tuo pensiero. Ok? Non hefker dico. Okay. Uguale, come il bitul, è tutto nel tuo pensiero. Visto che, abbiamo detto prima, solo il chametz che a noi appartiene è quello per il quale siamo passibili di una eventuale trasgressione, il chametz che a noi non appartiene, se io lo considero polvere della terra, allora vuol dire che non ha nessun valore per me, come se non appartenesse a nessuno, non ha un valore per poter appartenere a me, perché lo considero nulla, polvere della terra. Ok? Anche il concetto di Efker è simile, visto che lo rendo non più nel mio possesso, allora non sono più, non rientro più in un chametz che a me appartiene, perché non mi appartiene più, o non mi appartiene per l'Efker, o non può essere appartenuto, tra virgolette, perché non ha nessun valore. Polvere non è, non solo non è di nessuno, non ha il valore, non lo puoi comprare e vendere. È un altro aspetto, bitul è una cosa come polvere, che non ha valore, Hefker è un'altra cosa che non è di nessuno, che potrebbe avere un valore ma non appartiene a nessuno. Questo è sul piano di teoria, questa è solo una cosa che tu devi considerare dentro di te, nella tua mente. Sul piano dell'azione, secondo piano, seconda fronte di combattimento contro il chametz, cosa c'è? Eliminare fisicamente. L'eliminazione fisicamente inizia la sera prima del 14 con la ricerca, Bedikat Chametz, che è rapportata all'eliminazione che avverrà il giorno dopo. Lo togliamo dalla nostra casa. Leva'er vuol dire eliminare, non vuol dire bruciare. Facciamo la bruciatura, ma questo arriviamo. Per la legge della Torah Deoraita, per la legge della Torah stessa, sarebbe sufficiente o uno o l'altro. O il piano di teoria o il piano di azione. La Torah non richiede entrambe le cose. La Torah dice elimina. Lo vuoi farlo in maniera spirituale, che tu consideri nulla? Ok, è valido, allora non sei più passibile del precetto che dicevamo. Lo vuoi fare in maniera fisica? Ok, valido uguale. La Torah stessa non richiede entrambe le cose. Ma i Chachamim hanno istituito che bisogna farle entrambe. Perché? I Chachamim hanno detto non possiamo appoggiarci solamente al piano di teoria. Perché? Perché visto che si tratta di teoria e di un pensiero e di una considerazione che una persona fa, noi non possiamo quantificare e qualificare questo in ogni persona. Ognuno lo fa in maniera diversa dentro di sé. È una cosa soggettiva. Di conseguenza potrebbero essere delle persone che lo fanno davvero con tutto il cuore e altri che invece lo fanno, beh, una teoria, una formula magica, lo facciamo, ma poi in realtà questo chametz a me appartiene alla fine dei giochi. Allora in quel caso non andrebbe bene. I Chachamim hanno detto non sarebbe sufficiente. Un attimo solo. Allora hanno detto, se tu lasci dentro casa un chametz che tu pensi un giorno di mangiare e adesso lo annulli, l'annullamento non vale niente, perché l'annullamento vuol dire che tu lo consideri polvere della terra, ma se tu in un 1% di quell'annullamento hai in mente l'idea che dopo lo mangio, non è più polvere della terra perché non mangi la polvere della terra. Allora annulli tutto il 99% del bitul, capito? Non ha più senso. Allora per evitare questo problema e per evitare un ulteriore problema. Mettiamo che hai fatto il bitul al 100%. Sul piano di teoria hai decimato il nemico. Non c'è, sei tutto per te veramente polvere della terra. Potrebbe accadere che durante Pesach l'occhio ti si butta su un bel pezzo di chametz, ti dimentichi che è Pesach e lo mangi. Allora mangi un chametz che non è tuo, perché l'hai reso polvere della terra, l'hai reso efker, hai fatto il bitul con tutto il cuore, ma potresti rischiare, non eliminando anche fisicamente, potresti rischiare di mangiare chametz durante Pesach. Queste sono le due motivazioni più importanti tra le varie che i maestri che spiegano le Gemara spiegano, per la quale i Chachamim hanno istituito che non basta, per la legge rabbinica, per l'istituzione dei Chachamim, non basta solamente il bitul, cioè l'annullamento nel pensiero, serve anche il atto pratico di eliminazione del chametz. Dall'altra parte potresti dire, perché non possiamo dire, a quel punto facciamo solo il piano fisico? Se i maestri hanno detto che il piano teorico non è sufficiente, bisogna fare anche il piano fisico, per la Torah basta uno, abbiamo detto, uno dei due. Allora fai solo quello fisico, materiale, così sei sicuro. Perché serve anche il bitul? Noi facciamo sia, guarda sul libro, noi facciamo sia il bitul che l'abdicà per eliminarlo. Perché tutti e due? Perché hanno detto, se noi facessimo solo quello del piano fisico, c'è un problema molto pratico e semplicissimo, simile a quello che dicevamo prima, se non riuscissimo a farlo completamente, non per involontariamente, se venisse fuori invece durante Pesach del Chametz, allora non solo ci sarebbe il problema di forse lo mangi, come dicevamo prima, ma ci sarebbe il problema che a te appartiene Chametz durante Pesach nel tuo possesso, nella tua proprietà, e ci sono due precetti contro questa cosa, due divieti. Lo yeraelecha ve lo imatzelecha, non puoi vedere né avere in tuo possesso Chametz. Se non hai fatto il bitul e non sei riuscito involontariamente a eliminare tutto, rimane nel tuo possesso del Chametz e sei passibile di queste trasgressioni. Ecco perché i Chachamim hanno detto, servono entrambe le modalità, sia quello del bitul, dell'annullamento in teoria, nel cuore, nella mente, nel pensiero, che anche il concetto fisico, materiale di eliminare. Leonardo, cosa vuoi dire? No, che mi sembra un po' strano questa cosa. Cosa? Quale cosa? Perché è come dire che la Torah non ha preso in considerazione il fatto che l'essere umano possa fare le cose in maniera sbagliata, tra virgolette. Perché che non prende in considerazione? Perché se la Torah ti dice o fai uno o fai l'altro, è valido sia l'uno che l'altro, poi arrivano i Chachamim e dicono, che, come il Talmud, no? Arriva quell'altro e ti dice no, devi fare tutti e due, ma se la Torah dice devi fare o uno o l'altro gli sta bene, perché è come dire che, okay, la Torah non considera... Scusa che... se ti interrompo, questa è una domanda generale, quella che tu fai in realtà è una domanda generale su come funziona la dinamica tra mitzvah della Torah e mitzvah dei Chachamim, e c'è da fare una lezione solo su quella. Però, no, solo per rimanere in questo ambito del Chametz, perché qui andiamo fuori dall'ambito del Chametz, andiamo in generale in questa dinamica, la Torah vuole e riconosce che i Chachamim creino le possibilità di rientrare nella mitzvah della Torah. In questo caso i Chachamim hanno capito che questo è quello che devono fare per rientrare bene nella mitzvah della Torah. Quindi non è, possiamo dire siepe o altri modi, adesso ci sono diverse modalità, però... Non è che la Torah non prende in considerazione quello che potrebbe essere il fallimento dell'essere umano. La Torah parla di un certo ideale e la Torah dà ai Chachamim la possibilità di aiutare le persone ad avvicinarsi a quell'ideale. Non c'è una... così, diciamo così, funziona la dinamica tra Deoraita e Derabanan. E funziona, c'è una certa simbiosi, funziona un po' insieme. Prego. Io penso... che il fatto della mitzvah, che voglio dire, è secondario a quello del bitul, perché tutta la storia va nel bitul per cominciare. La cosa più importante è come si dice, è psicologica, è spirituale. E questo qui di fare le mitzvot e le mazza e le va, è per indirizzarti verso il bitul. che la cosa più importante nella Darti tua mente riferimenti concreti materiali per quello che e, vuoi e quello pensiero. Ti aiuta per arrivare certo. A quella cosa, perché la cosa importante è là, è la testa. Ok, va bene, procediamo. La domanda è tu stai parlando del okay. proprio di tutto il cuore che okay. c'è nella mitzvah. Non ti offendere. Tu devi insegnare loro, non a me. Io sono d'accordo con te. Lui non ha detto che io prima della lezione gli ho detto di dire questo, vero? Allora. Ok. Per ciò che riguarda appunto distruggere il Hametz, abbiamo spiegato che i Chachamim richiedono, per le motivazioni spiegate, entrambe le modalità, sia Bitul, cioè piano teoria, e sia piano pratica. Ok? Il modo in cui lo facciamo alla fine l'eliminazione è attraverso la bruciatura, perché questa è considerata la maniera migliore, però non è l'unica maniera, e questo l'abbiamo già spiegato un po' dietro nella prima lezione sulla Mishnah di Pesachim. Ok? Bene. Andiamo un po' avanti. Allora, la sera prima del Seder, sul piano pratico, come funziona? La sera prima del Seder, cioè la sera del 14 di Nisan, iniziamo con questo processo di eliminazione, questo processo di distruzione del Hametz. La prima cosa è attraverso la bedika, cioè la ricerca del Hametz, che avviene appunto quella sera. E subito dopo la bedika noi recitiamo una prima formula di bitul, di annullamento. Perché, di nuovo, per la Torah sarebbe sufficiente il pensiero, ma i Chachamim hanno aiutato a questo pensiero formulando una formula specifica nella quale si recita proprio questo concetto. Sì, adesso vediamo. L'indomani cosa facciamo? Eliminiamo il Hametz che è rimasto dopo la ricerca, perché dopo la ricerca noi possiamo mettere da parte i pezzettini che sono stati messi per la ricerca e trovati. E anche Hametz che ancora possiamo mangiare per la cena o per la colazione fino a una certa ora, possiamo ancora mangiare Hametz. E di conseguenza quel Hametz non fa parte del bitul. Se facesse parte del bitul non lo potrei mangiare. E se lo mangiassi, il bitul non avrebbe alcuna validità, come spiego prima, perché se io lo rendo importante mangiandolo, vuol dire che non è polvere della terra, vuol dire che il mio bitul sono parole, basta, non sono sentite, non hanno senso. Di conseguenza il bitul si applica a quel Hametz che non ho trovato nella ricerca. Il Hametz che ho trovato lo metto da parte per bruciare. Oppure lascio da parte un Hametz che voglio mangiare, non lo voglio annullare. Ancora posso mangiare il Hametz fino a domani. Il bitul riguarda eventuale Hametz che non ho trovato, in modo tale che non sia in mio possesso durante Pesach. Okay? Dopo che è arrivato l'orario in cui non posso più mangiare Hametz l'indomani e brucio il Hametz, dopo la bruciatura o durante la bruciatura, di nuovo recito una formula di bitul. Che questo riguarda già tutto il Hametz, che adesso non è più, adesso già non è più permesso alcun tipo di Hametz. Ok? Di nuovo, è possibile eliminare il Hametz anche in un'altra maniera, cioè quella di venderla a un goy o renderla hefker, di proprietà di nessuno, perché di nuovo il Hametz che è vietato avere in proprio possesso proprietà è quello che appartiene a noi. Ok? Quindi se si trova presso di noi ma non è nostro, non siamo passibili della trasgressione. Però noi facciamo il controllo, la ricerca, la bruciatura e il bitul per eliminarlo completamente, vero? Quindi è un atto fatto contro il Hametz. l'eventuale vendita di Hametz o rendere Hefker il Hametz è un atto rivolto non al Hametz, ma è un atto rivolto a noi che il Hametz non sia in nostro possesso. Cioè una cosa è bruciare il Hametz, vuol dire distruggo il Hametz stesso e di conseguenza non c'è Hametz, oppure tolgo la proprietà dal Hametz, il possesso dal Hametz, in modo tale che io non possiedo Hametz, ma il Hametz rimane. Uno va contro il soggetto Hametz e uno va contro il soggetto, non è il Hametz, ma sono io che tolgo il mio possesso. Quindi potrebbe funzionare l'eliminazione del Hametz in due maniere. Oltre ai due fronti di combattimento che abbiamo visto, ci sono anche due concetti a livello teorico, come si elimina. Uno, eliminando il Hametz, quindi l'atto è nei confronti del Hametz, oppure eliminando la mia proprietà, il mio possesso, quindi l'atto è nei confronti miei, non del Hametz. Questi sono due, in modo teorico c'è una differenza tra queste due cose. Ok, dopo di questo arriviamo a vedere ciò che riguarda il controllo del Hametz. La prima cosa, abbiamo chiarito una delle domande che Leonardo e che abbiamo fatto l'altra volta, cos'è? Se c'è il controllo e l'eliminazione, perché serve il Bitul? E se c'è il Bitul, perché serve il controllo? Abbiamo chiarito il motivo e le varie motivazioni perché sono necessarie entrambe queste due cose. Una persona non può venire e dire ok, io rendo tutto Batel e rimane la mia casa come tutto l'anno perché sul piano teorico sono a posto. Non vale. I Chachamim hanno spiegato come possiamo rientrare nella mitzvah e come abbiamo spiegato prima attraverso entrambe le modalità. Cosa succede però? Vorrei parlare di un caso specifico. Innanzitutto la ricerca del Hametz, se una persona possiede più case deve cercare il Hametz in tutte le case, per esempio se abbiamo una yeshiva, un Bet Knesset con l'El Torah, anche qui bisogna fare, si fa la Bedikat Hametz, una scuola eccetera, chi però parte, va via da casa, chi va via da casa entro 30 giorni prima che inizia Pesach è obbligato a fare la ricerca del Hametz. C'è un obbligo di Bdikat Hametz, non è che tu vai via e fai il vago. C'è sempre l'obbligo. Ora, aspettate. Prima di tutto non si dice la Berachah, perché la Berachah si dice solo quando è nel momento. Cioè dalla sera del 14 in poi, si dice la Berachah, in poi vuol dire perché abbiamo studiato la Mishnah, se uno non ha fatto la ricerca la sera del 14 per chissà quale motivo, la deve sempre fare anche se è già diventato Pesach, è l'ultimo giorno di Pesach, ah mi sono dimenticato, non ho fatto la ricerca, prendi la candela con la Berachah, fai la ricerca del Hametz. Tutto il tempo, fino alla fine. Non è che c'hai tutto il tempo, però devi rimediare, devi rimediare. L'abbiamo studiato la Mishnah, forse non c'eri. Bene, quindi abbiamo detto c'è comunque l'obbligo di controllare, di cercare il Hametz. Ora vediamo un caso specifico. Voglio trovare un attimino la fonte. Io da fuoco alla pizzeria proprio. Ma che da fuoco? Che stai dicendo? Ok. Se uno parte e il progetto suo è di tornare dopo Pesach, abbiamo detto, di nuovo, se parte entro 30 giorni prima di Pesach, quindi da Purim, deve fare il controllo del Hametz, la ricerca del Hametz. Anche se farà il Bitul, di nuovo, però i Chachamim hanno istituito che bisogna fare entrambe le cose, giusto? E quindi pulizia anche connessa. Oh, allora in teoria, per poter fare la ricerca, devi fare la pulizia, cioè ti devi assicurare che non c'è Hametz. Ora, se parte prima di 30 giorni, cioè prima di Purim, non è obbligato più a fare la bedikà, la ricerca, ma ovviamente deve comunque fare il bitul, la vigilia di Pesach, ok? Per non rientrare nell'avere Hametz in proprio possesso, nel caso ci fosse dentro casa sua. Se la persona parte da casa nel periodo prima di Pesach, anche prima di 30 giorni, uno che viaggia per 6 mesi, e tornerà a casa durante Pesach, deve fare la ricerca del Hametz prima di partire, anche se Rosh Hashanah perché siccome lui sarà presente a casa durante Pesach, dovrà prima assicurare che è tutto a posto, come se fosse lì la vigilia di Pesach. E quindi deve fare la ricerca prima. Dopo Pesach è più o può anche nominare un agente per fare per lui l'abdicà Hametz, la ricerca prima di Pesach. Ok? Può chiamare col telefono o con altra maniera e delegare qualcuno a farlo per lui. Ora, ci sono molte persone che vogliono andare via da casa per Pesach proprio perché vogliono evitare di fare tutta la pulizia e tutta la difficoltà che questo comporta, eccetera, eccetera. La domanda è, se loro vendessero la loro casa a un non ebreo o la affittassero a un non ebreo anche, quindi teoricamente non sono più loro proprietari, diciamo così, attivi del possesso, forse non hanno più l'obbligo di fare la ricerca del chametz e quindi tutta la pulizia, eccetera. Allora ci sono in realtà discussioni tra i poskim su questo, su questa casistica, che è quella molto comune, che tocca moltissime famiglie. C'è tra i poskim molti che dicono che, visto che la casa non è in tua proprietà già da prima della vigilia di Pesach, perché se si facesse questo bisogna assicurare che sia prima della sera, quando c'è l'obbligo di controllare il chametz, quindi deve essere almeno dal giorno prima, dicono ok, non sei obbligato a fare la ricerca, che non è in tuo possesso tutta la casa. Altri maestri dicono, visto che entro i 30 giorni prima di Pesach comunque sei stato dentro a casa, è casa tua, e già scatta un po' l'obbligo della ricerca entro 30 giorni, allora sei obbligato, non puoi eliminarti diciamo esimerti dall'obbligo. In pratica, per, diciamo così, rientrare un po' in tutte le idee, in tutti i punti di vista dei maestri, è bene fare la seguente cosa: affittare o vendere tutta la casa a un non ebreo per Pesach, partendo dalla data prima ovviamente, ma con l'eccezione di una stanza. Una stanza non rientra nella vendita e non rientra nell'affitto eventuale, e in quella stanza fare la pulizia e la ricerca del chametz prima di partire, per non togliersi dall'obbligo dei chachamim e per rientrare in quello che è la mitzvah. E se facendo così si può togliere le altre stanze, le altre aree della casa, non siamo più obbligati a fare lì la pulizia e la ricerca. Ok? Se non torniamo durante Pesach, ovviamente. Se torniamo durante Pesach deve essere tutto normale. Stiamo parlando che si lascia per tutto Pesach. Quello che però bisogna ricordare è che anche facendo questo, per ciò che riguarda per esempio gli utensili della cucina, i forni dove potrebbero essere rimasti dei residui veri e propri di chametz, questi residui bisogna eliminarli comunque. Perché? Anche se si vende tutta casa. Per quale motivo? Perché se io ritorno dopo Pesach e uso lo stesso forno che non è stato pulito e ci sono residui di chametz, si entra in un altro problema che si chiama chametz she'avar alav ha-Pesach. Questo è chametz sul quale, abbiamo anche studiato un po' nella Mishnah di questo, chametz che era in esistenza durante Pesach è vietato anche dopo Pesach. Di conseguenza, quei residui di chametz comunque li devo pulire dal forno, o gli utensili che hanno assorbito il cibo chametz, li devo pulire o li devo includere nella vendita del chametz al non ebreo prima di Pesach. Ok? Quindi quando tu vendi devi... C'è discussione sulla Tfilat Kelim, infatti. La maggior parte non fanno Tfilat Kelim. Nella vendita bisogna scrivere per esplicito che sono anche gli utensili. Sì, tutto meglio scrivere per esplicito. Okay. Ok, allora io non voglio fare le pulizie, ho tanti bambini, grazie a Dio, a casa, mi rimane difficile. Allora decido prenotare un albergo, kasher le Pesach, vado lì, mi tolgo tutto il pensiero, la stanza più piccola della casa non la vendo al goi, così faccio lì la ricerca e tutto quanto che devo fare, la pulizia, e vado nell'albergo. Arrivo nell'albergo, devo fare l'abdikat chametz nella mia suite di albergo? Devo assicurare che non ci sia chametz nella mia suite? E io ho preso, affittato questa stanza per 10 giorni? Penso di sì. Allora, perché non devo fare lì la ricerca del chametz? Senti, a casa tua. Come se fosse casa mia. Esattamente come casa mia è di un altro, e io non devo fare l'abdikat, ma questa è mia invece. Sì. Allora, se io arrivo all'albergo 14 di Nissan, o la sera prima, devo fare l'abdikat chametz. E che albergo è questo? Scusa, se ti affitta... Dovrebbero averlo già pulito. E lui lo deve fare. Non vuol dire, è un'altra cosa. Odio te. Ah. Ken? Sì. A lui dice anche se l'albergo appartiene a un non ebreo, a cheder, a niscarti a cheder. Io ho noleggiato, ho affittato questa stanza. Di conseguenza... Se io mi sono assunto la responsabilità, a me è stata data la chiave, io posso entrare e uscire quando voglio, eccetera, e io mi bussano alla porta per entrare, non entrano a casa loro, è come casa mia, allora di conseguenza è come se affittassi una casa. O chi affitta un appartamento per Pesach, uguale, a maggior ragione. Ho la mitzvah con la berachà di fare la ricerca del chametz, e dopodiché fare anche il bitur nel caso ci fosse del chametz lì presente, che considerata quella il mio possesso, la mia proprietà per il momento, e non mi rendo esente, diciamo così, dalla mitzvah. Se io dovessi arrivare all'albergo, allora faccio una parentesi, uno presume che la stanza d'albergo sia pulita, quindi non si richiede di fare una pulizia di chissà che cosa, solo vedere che il posto è pulito. Non è che devi andare a vedere nel soppalco se è rimasto qualcosa. Vedi se il posto è pulito e fai l'abdikà. E la ricerca del chametz, non è così difficile fare la ricerca del chametz. 2 minuti hai fatto. 2 minuti? Non lo so, però... però negli angoli. La domanda è se io faccio Pesach a casa e poi Chol HaMoed decido di andare in albergo durante Pesach. Quindi non arrivo prima di Pesach, come nel primo esempio. Arrivo durante Pesach. Anche lì mi devo informare. Devo informarmi se è stata fatta una pulizia per Pesach, come se il proprietario è ebreo e ha detto io ho fatto pulire questo tutto l'albergo per Pesach, allora va bene. Ma se non è stato fatto chissà che cosa, allora sei comunque obbligato a fare la ricerca del chametz nella stanza d'albergo che arrivi durante Pesach. Solo nel caso che non è stata fatta la pulizia prima. Meglio rimanere a casa. Ah, certo, bravo. Non puoi andare neanche ospite da un amico, metti che non l'ha fatto. No, è diverso ospite. Ospite non è casa tua, noi stiamo parlando quando è casa tua. Sì, quando è tuo albergo o tuo appartamento che hai preso in affitto. Chi è proprietario di un albergo? Mishe Baluce Loza Amalon. Se lui è proprietario, lui deve assicurare che tutte le stanze sia stato effettuato l'abdikat chametz. Mm-hmm, certo. E può ovviamente delegare altri per aiutarlo, non deve fare tutto da solo. Nahon. Vero, vero. Allora l'alaha dice che se una persona purtroppo è ricoverata in ospedale, nella stanza, allora l'alaha è questa, in teoria in un ospedale pubblico dove tu non sei sicuro di rimanere in quella stanza e non è tua proprietà, loro potrebbero dirti ok adesso devi passare a questo dipartimento, a quell'altro piano, a quell'altra camera, allora non devi fare la ricerca con una berachà, ma comunque devi assicurare che nella stanza in cui ti trovi fai una ricerca, controlli l'armadietto, quello che hai, per assicurare che non ci sia chametz, ma non fai la berachà perché non è tua proprietà. Mentre invece nel caso, ad esempio, che dice Moshe, vuol dire un ospedale privato, una clinica dove tu hai una tua stanza ed è come se fosse un albergo, perché tu hai pagato quella stanza e lì rimani, allora lì devi fare la vera abdikat chametz, cioè la ricerca in teoria anche con la berachah. Ok? Ora. No, scusa, ma posso delegare sì? Qualcuno a fare la cerca per me? Sì. Ah. Un ebreo? Sì, sì. Deve essere un Yehudi, che ha anche l'obbligo come te. Sì. Ok. No, prima che sì? Finisce, sì, dimmi. C'è una storia da raccontare. Ok, allora concludo e poi racconti la storia. Solo un secondo. Quando, torniamo un attimino al concetto del bitul. Il bitul è la formula di come si recita. Abbiamo detto che per la Torah è solo un pensiero, ma i Chachamim hanno aiutato a questo pensiero formulandolo nelle parole specifiche da recitare, che è in lingua aramaica. Perché? Perché quando l'hanno formulato, la maggior parte delle persone semplici, grazie, non colte, capivano l'aramaico meglio di qualsiasi altra lingua. Vuol dire che per noi è bene recitarlo in italiano o in una lingua che si capisce bene, in ebraico, quello che sia, perché la formula è in aramaico non perché è una formula magica, ma perché bisogna proprio capire quello che si dice. Se uno legge il bitul e crede che sta facendo qualcosa di religioso, di spirituale, perché diventa non so che cosa, il bitul non è valido. Il bitul deve essere proprio quello che avere in consapevolezza il pensiero, le parole che uno sta dicendo, e il bitul copre, diciamo, entrambe le possibilità di cui parlavamo, cioè sia il rendere nullo, non considerare come polvere della terra, sia il hefker, eventualmente, espropriare. Solo un secondo. Ok. Cos'è l'eruv che si legge anche in un'altra lingua? No. Sì, eruv tafshilin. Ok, ci sono alcuni altri dettagli sul bitul. In teoria non solamente per la ricerca è possibile delegare un agente a farlo, ma in teoria anche per il bitul ci sarebbe la possibilità di delegare un agente di fare il bitul per te. Però è meglio evitare questa cosa, perché non tutti i poskim sono d'accordo che questa cosa è possibile, che per il bitul invece bisogna fare di persona proprio. Ok, allora concludiamo qui. E vogliamo sentire, attendete per favore, abbiamo un messaggio da sentire.